anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records per la 39esima puntata. Avevo detto, non stiamo tornando indietro, avevo detto che l'ultima fatta 2 settimane fa era la 40esima, invece ho ricontrollato col cervello che ho, avevo sbagliato. Dobbiamo tornare indietro di una, questa è la 39esima, anche se c'è la 40esima già registrata, e bentornati qui per il vostro sabato sera sulle frequenze di Radio Wombat, puntata specialissima stasera di Basement Records, qui con due grandi ospiti. Abbiamo qui accanto a me ormai un ospite direi abbastanza frequente, un lieto ritorno, il Nero qua, che è tornato a farmi compagnia sulle frequenze qui a Basement Records, ma soprattutto un grandissimo ritorno qua a Basement Records e soprattutto a Radio Wombat. È tornato in mezzo a noi dalle memorie del rovescio della medaglia. Prog 375 Magnum is back on air tonight here in Radio Wombat. Welcome back. Grazie, grazie Dama della presentazione così calorosa. Emozione veramente. Buonasera a tutti. Questi due grandi ritorni che mi hanno portato anche dei vinili da integrare a quelli che già mi erano stati dati in usufrutto da quella che negli ultimi mesi ho chiamato costantemente Radio Comanci, per poi venire a conoscenza poche settimane fa che in realtà mea culpa la Radio Libera degli anni 80 di Campi Bisenzio in realtà era Radio Geronimo. Però insomma sapete sempre con chi avete a che fare qui, quindi cioè mea culpa, ma è il meno diciamo degli errori fatti qui a Basement Records. Questa era la sigla, la consueta sigla di Basement, che ormai, come ho già detto nelle puntate precedenti, è veramente la risento usata da tutte le parti, addirittura nelle pubblicità. Quindi stavo pensando appunto addirittura di cambiarla. E poi che dire, in onore di Frog 3,14 pi greco, avevo messo qua sul piatto il primo vinile di appunto Radio Comanci, che è un pezzone Frog in onore di Frog, e sono gli Emerson, Lake e Palmer. E a questo punto, visto che andiamo nel prog, come non fare a salutare l'altra banana mancante, ovvero il mitico Frog One, che da quando è stato abbandonato sulla via di Damasco da DJ Azio, che è scappato a Kingston, non c'è stato più verso di riportarlo a Radio Wombat. Ci sono tentativi e trattative, magari ce la faremo a riportarvelo. Però sapevo che con questo disco avrei fatto cosa lieta appunto per riagganciarmi al rovescio della medaglia. Qui appunto ho tre grandissimi del progressive inglese: Emerson, Lake e Palmer. Lake, che a quel tempo era appena fuoriuscito, sfanculando Robert Fripp dai King Crimson, e si era unito appunto a Keith Emerson e a Carl Palmer, formando questo leggendario super trio del progressive. Questo è uno dei loro storici album, Pictures at an Exhibition, un disco del 1971, e oltre a Greg Lake dai King Crimson era passato agli Emerson, Lake e Palmer anche Sinfield, che era il paroliere dei King Crimson, ma poi una volta fuoriuscito è andato a fare il paroliere di Emerson, Lake e Palmer. Non so, così per farvi entrare un po' più nell'atmosfera, facciamo partire queste blues variation di Emerson, Lake e Palmer. Che mi dite? Ci state? Perfetto. Vi volete ancora un po' scaldare? Vi vedo un po' contratti. No, ci siamo. Siamo caldi. Siete caldi? Siamo in attesa. Vi ricordate un po' l'inizio dei concerti di Madonna? Partiamo allora con questo disco, che essendo dei maledetti del progressive, io come vorrei far vedere appunto questo disco, essendo progressive, essendo fondamentalmente in suite, non si riesce a capire un cazzo di dove comincia una traccia e dove finisce l'altra. E questa comunque dovrebbe essere le Blues Variation di Emerson, Lake e Palmer, da questo Pictures at an Exhibition del 1971. E questa è sempre Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. questi appunto erano Emerson, Lake e Palmer con questa Blues Variation in versione live. Live tra l'altro registrato a Newcastle il 26 marzo del 1971. Se no, appunto, non sarebbe stata una fotografia da un'esibizione se non fosse stata live. Scemo io, anche solo avessi pensato fosse stata in studio. E invece, giustamente, era un'esibizione a Newcastle il 26 di marzo del 1971. Inconfondibili, direi, specialmente il piano di Keith Emerson, che si riconosce istantaneamente quando metti un disco del terzetto. Certo, questo è un album appunto tutto registrato dal vivo e per il 90% ispirato e tratto proprio da riarrangiato da quadri in un'esposizione di Mussorgsky. Esatto, perché del 1874, se non sbaglio, una suite, appunto anche l'originale, che comprendeva 15 brani, diciamo, e 11, diciamo, era la descrizione del quadro appunto esposto, mentre 5 brani che vengono anche ripresi da Emerson, Lake e Palmer erano le passeggiate, diciamo, le promenade tra un quadro e un altro. Esatto, perché poi infatti vedo nei titoli del disco The Heart of Baba Yaga, anche The Great Gate of Kiev, i grandi cancelli di Kiev. Poi c'era lo gnomo, il saggio e il vecchio castello, tutti appunto titoli che ricordavano passaggi evidentemente di una storia di questa lunga suite basata sui lavori di Mussorgsky, appunto un grande classico della musica progressive. E volevi aggiungere qualcosa a proposito appunto di Mussorgsky prima che ti interrompessi? No, va benissimo. Era così solo per ci eravamo dimenticati, ecco, di citare l'opera principale da cui era stato tratto e riarrangiata da Emerson, Lake e Palmer. Giustamente, però siamo partiti e presi da l'euforia e dall'entusiasmo ci siamo scordati di ricordare gli indirizzi per mettersi in contatto qua su Radio Wombat da noi. Il nuovo sito è sempre radiowombat.net. La nostra frequenza nelle onde mediocre, in onde medie, sulla vostra autoradio o sulla vostra radiolina di casa se siete nelle zone di Firenze o prettamente limitrofe, è sempre 1359 1359 in onde medie, ribadisco. La mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre twitter.com/radiowombatfi e facebook.com/radiowombatfirenze. Appunto, però stasera ho qui ospiti a Basement Records, due eccelsi cuochi, al di là dei loro meriti prettamente musicali. Ora è un po' tutto fermo per questa situazione appunto da zona rossa. Vorrei farmi raccontare un po' com'è la situazione dei vari circolini, dei punti di ristoro che noi tanto amiamo per la socialità delle scene, per sbronzarsi tutti insieme. E a che punto siamo? Sì, no, vedo gesti di Arachiri, anzi direi di seppuku addirittura, perché cioè, oltre a infilarsi la katana nelle viscere c'è anche il gesto finale dello squartamento. Sì. Quindi io vado con la decapitazione a questo punto. Il rito completo prevede anche la decapitazione. E niente, siamo qui e ci accontentiamo dei piatti del giradischi per ora. E magari speriamo. Per ora tocca fare con i piatti del giradischi. Sì. Bello, questo parallelo, mi è piaciuto. E al limite un panino al volo. No, le cucine sono un po' tutte ferme, sia quelle, sia quelle a livello professionale che a livello ludico, come piace a noi fare, diciamo, a giro per centri sociali, circolini. E, ci stanno tenendo fermi senza mangiare, insomma, sì, via. Sì. E invece solo per il, diciamo, proprio il sostentamento casalingo. Per mettere su chili. E come, però se non ci fate mangiare, come si fa a mettere su chili? A casa panini. Solo panini, eh? Panini, la pastina, la pasta. Ora ho visto anche la Lidl ha fatto la carbonara in barattolo. Potrebbe essere interessante. Ecco, a proposito di questi risvolti culinari, una carbonara in barattolo, sì, ma la vendano solo agli americani oppure no? È già arrivata sulla linea commerciale italiana. Ci hanno avuto il coraggio di farla arrivare anche evidentemente, forse si sta proprio perdendo allora l'uso dei fuochi anche qua, perché non pensavo che potesse una roba del genere potesse valicare i confini nazionali. Sì, arriva. Penso una sera si farà una cena insieme. La prossima trasmissione la collaudiamo qui. Sì, radio. Però se portiamo quella in barattolo, io la voglio che rimanga perfettamente della forma del barattolo, la carbonara. La voglio cilindrica. La voglio cilindrica in stile barattolo. Messa nel vulcano di spaghetti. E la mangiamo a cucchiaio. Vedi quando poi dai un po' di spinta ai cuochi, subito la fantasia come riaffiora. Comunque siamo al barco, quando si vuole si ripartirà in tromba, in tutti gli aspetti, in tutti i settori. Tutti in attesa del semaforo, appunto, il semaforo in tutti i sensi, visto le colorazioni. Poi ora hanno cominciato anche a fare le regioni bianche. Arrivarci. Il casino sarà arrivarci, proprio quelli, però a nuoto. Tocca, per ora, per raggiungere la regione bianca tocca farsi diverse bracciate, per arrivare fino alla Sardegna, isola felice. No, a Livorno ci si può arrivare in qualche modo, è da lì in poi che finché non fanno il ponte. Livorno Olbia. Ecco, però fino a Livorno ci puoi arrivare, a Cecina no. No, a Cecina no. Cecina l'hanno fatta diventare rossa solo il comune di Cecina. Sì. Perlomeno che non siano abbiano avuto ulteriori evoluzioni questi colori. Però vabbè, se ci fanno arrivare fino alla costa magari un piattino di pesce fresco non in barattolo ce lo fanno anche fare, sempre da asporto. Comunque per ora sì, rigorosamente da asporto. Ci smetterà lì sulla panchina del giardinetto per non creare assembramento, a mangiarci la nostra gavetta come alla pausa pranzo al lavoro. Comunque l'importante è rimanere attenti, perché arriveranno date presto. Esatto, non perdete di vista i vari appuntamenti sopra la punta.org. Ricordo che raccoglie un po' un po' di appuntamenti dell'ambito della, della zona fiorentina e limitrofe. Però che dire, che facciamo? Ci mettiamo, mettiamo un altro disco? Vai. Facciamo un bel salto carpiato prendendo il prossimo disco di Radio Comanci. Ovviamente stasera tutto, tutto improvvisato, niente di programmato. Quindi salto quadruplo perché dal progressive di Emerson, Lake e Palmer passeremo al post rock degli anni 80 del, del pop group. E visto la serata, da questo disco, da How We Tolerate Mass Murder dei pop group, ci andremo ad ascoltare Rob a Bank. Quindi capitava proprio a fagiolo, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. Siamo, c'eravamo fermati anche noi evidentemente a raffinare una banca, ma vedo qua giù e qui c'è grandi ospitate stasera, perché qui vedo arrivi in ogni dove veramente, cioè allora qui euforia piena for real. Ma siamo quasi in atmosfera Sanremo. Sì, cioè, ospitate. Forse è quello. Musica, ospiti. Ospiti, qui volendo, io vedo volare anche la fatina Wendy da queste parti. Che fa? È venuta a farci un saluto? Sì, ciao. Come? Venga qua ai microfoni a salutare. Si prendere una birra e poi mi saluto. Come? Ci ha tradito così per del beveraggio, che vergogna. Che vergogna, noi che siamo qui a fare cose serie. Però intanto sono arrivate anche da noi un po' di birre fresche. Esatto, e quello non era poco. Infatti ci sentivate che eravamo un po' legati come inizio. Ora invece già la situazione si è già più sciolta. Comunque Bellissimo questo Robba Bank di questo discone del pop group del 1980, questo disco bellissimo, direi proprio emblematico della stagione d'oro, dell'inizio della stagione d'oro del post-punk, appunto. Andatevelo a recuperare, questo meraviglioso album del pop group. Magari se ci avanza un po' di tempo si potrebbe rimettere anche un altro pezzo da questo album. E che dire, con il supporto di queste birre possiamo andare avanti. Io se mi fate andare avanti così, io continuo a mettere musica, però qui stiamo andando, cioè, su roba tosta, perché appunto radio in realtà Radio Geronimo, che ho chiamato fino a tre secondi e mezzo fa, Radio Comanci, appunto aveva anche un sacco di chicchine, essendo Basement Records un programma su i vinili di recupero, e già, avendo già fatto svariate puntate di Basement Records con i dischi arrivati qua in dono, non ho messo un altro qui sotto il giradischi. E che facciamo? Ce l'andiamo a ascoltare subito a bomba? Sì, andiamo. Tanto stasera andiamo un po' così random. Passiamo, certo, dagli anni 70, 80, poi torniamo indietro. Sì, ecco, allora... Che in genere è molto preciso il nostro DJ Penapò. Ma... Il DJ Penapò... Abbiamo fatto saltare gli schemi stasera. Ma noi oggi non lo appoggiamo, oggi non le appoggiamo. Siamo un po' con tre cilindri invece che quattro, ma forse vanno due. Ma vanno bene. E che qui c'è un altro salto triplo relativo, perché gli anni sono più o meno quelli. Infatti il disco precedente del pop group era del 1980, spaccato, questo è del 1982, ma siamo completamente e totalmente da un'altra parte. Mi infamerete, perché qui c'è una delle mie passioni, anche se non conosco proprio esattamente bene questo disco, che non conoscevo, e ovviamente come in tutte le puntate di Basement non mi sono assolutamente preparato, e quindi andiamoci ad ascoltare questo collettivo che si è chiamato come uno standard che poi è diventato uno standard del jazz degli anni a venire. Ricordo di aver anche messo in una precedente puntata su Roland Kirk aveva fatto proprio un disco con il nome del gruppo di stasera, ovvero Rip Reagan Panic. E questo invece è il nome del collettivo, Rip Reagan Panic. Il disco si chiama Am I Cold, e è un ensemble di produttori e musicisti, tra cui spicca il nome del grande Don Cherry, del trombettista e polistrumentista Don Cherry. E quando ho visto tra appunto i vinili di Radio Comanci il suo nome, ben mi sono guardato di andarmi a informare, ma sono venuto a conoscerlo qua insieme a voi. Infatti mettiamo subito la prima traccia del secondo lato, del lato B di questo Am I Cold, perché il lato B, chiamato Southside, questa prima traccia è Tex Sex, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. E questa era Rig Panic, l'ensemble, che dice, sì, jazz c'era, effettivamente, qualche, le svisate del jazz si sentivano, però era un gran mischione di generi, effettivamente, interessante come disco, andrebbe esplorato sicuramente un... rivalutato. Sì, ora magari sono ignorante io, è un disco famosissimo, però notevole, sicuramente un disco da ascoltarsi meglio, perché sento che ci sono tante cose dentro, però adesso è giunto il momento di uno dei dischi che ci ha portato a integrare la collezione di Radio Geronimo, uno dei dischi che ci ha portato qua il buon Prog 44 Magnum, e sono gli Yardbirds. Quindi, appunto, ennesimo salto di palo in frasca, e una raccolta, direi, dei grandi successi degli Yardbirds. Infatti vedo 20 Greatest Hits, che dire, gli Yardbirds hanno fatto la storia. Non vi sto a tediare con il mio solito rompimento di palle sulla storia degli Yardbirds. Se volete, andatevi a recuperare, così almeno mi faccio anche pubblicità, la puntata, lo speciale monografico di Tonight Alive degli Yardbirds, gruppo che è stato un ricettacolo per i grandissimi nomi, specialmente della chitarra blues inglese. Infatti dicevamo, appunto, con Prog prima, c'è passato Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, se non ricordo male, però tutti e tre insieme erano solo in un album. Poi era una formazione molto fluida nel corso degli anni. Essendo un greatest hits, si potrebbero mettere tutte dalla prima all'ultima. Ci sono grandi pezzi che sono classici del blues, come Good Morning Little Schoolgirl, come Too Much Monkey Business, I Am a Man, che è il pezzo di apertura del lato A del disco. Però metterei, appunto, un classicone che dura veramente, è fulmineo, The Train Kept Rolling, un grande classico, appunto, degli Yardbirds, che poi verrà anche sviluppato da altre band del blues revival inglese. E sentiamoci questo 1 minuto e 40 di The Train Kept Rolling, sparato. Questo è sempre Basement Records, qui a Radio Wombat. Loro sono gli Yardbirds. Thank you. pezzo fulmineo di un minuto e 40. Dove va Wendy? Dove sta volando? Wendy, sta volando via? No, no, sono qua. È qua, però lontana dai microfoni. E che dire, che dire? No, e visto che siamo con gli Yardbirds, subito dopo a ruota per continuare su questo andazzo e non fare il solito salto triplo da un vinile all'altro, metterei subito un altro disco qua portato dal buon prog, che visto che ci porta alla storia della musica rock, una raccolta qui dei Cream, appunto, per passare da Clapton dal Clapton degli Yardbirds al Clapton dei Cream, sicuramente un salto dopo un bel po' di palestra musicalmente parlando. E questo pezzo è un classicone del blues, un pezzo scritto dal leggendario bassista nonché compositore e arrangiatore Willie Dixon, una figura leggendaria del blues americano, che però questa Spoonful fu portata al successo da Howlin' Wolf, e questa è la versione extramuscolare dei Cream di questo grande classico della musica blues, Spoonful. Questi sono i Cream, Basement Records, Radio Wombat. Precious love, satisfy my soul. Many lies about it. Some of them cries about it. Some of them dies about it. Everything's a fighting about. Thank you. C'era il finale dei Jack Bruce, sembrava finita prima, ma in realtà non lo era. Pezzone clamoroso dei Cream, vabbè, però con me è sfondato una porta aperta, appunto, come ho amato ricordare nell'ennesima trasmissione di Tonight Alive sui Cream. Però l'hai fatte tutte, come si fa? No, ancora ce n'è tante. Qui proprio quando ho fatto quella sui Cream, ho giocato proprio in casa, perché appunto, come dicevo in trasmissione, cioè, mio babbo è tuttora un grandissimo fan dei Cream e li usava praticamente per addormentarmi, quindi cioè, è stato un po' un grande ritorno all'infanzia, cioè c'è chi si addormentava con le ninna nanna e con me usavano tutta la discografia dei Cream, di Derek and the Dominoes, degli Yardbirds, di John Mayall, Blues Explosion, ovunque fosse andato Eric Clapton. E allora cioè, era un po' come il ritorno all'infanzia, era stata quella trasmissione. Mi ricordo quella trasmissione e dopo la trasmissione ci sono stati un po' di aneddoti sulla vita di il batterista. Ah, su Ginger Baker. Ginger Baker che abbiamo scoperto che era quasi paesano per un certo periodo, che abitava a Calenzano. Ah, è vero, già, è vero. Incredibile. Abitava proprio in centro a Calenzano e addirittura ho letto degli articoli perché mi ero incuriosito e c'è un concerto memorabile a un circolino di Quarrata. Sto sgranando gli occhi e non potete vedere. Ovviamente non credo ci siano registrazioni o comunque non accessibili, no, ma ci sono delle fonti documentate su questo concerto al circolino di Quarrata. Allora bisogna informarsi meglio. Qui aprirei una parte di pubblica utilità nel delirio di stasera e quindi io farei un appello agli ascoltatori di Radio Wombat, ovvero chiunque per un qualsiasi motivo dovesse avere quella registrazione di Ginger Baker al circolino di Quarrata, in quella che allora era ancora la città del mobile di Quarrata, prima che arrivassero i cinesi e poltrone e sofà. Allora, se appunto qualcuno ha la registrazione del concerto di Ginger Baker, che poi al di là dei Cream era, veniva dal jazz, ha collaborato veramente con chiunque, un gigante della batteria, però qui il buon prog 144 mi ha ricordato un aneddoto, appunto, che si era portato, che probabilmente era finito in uno dei neuroni che ho perso nel frattempo. Però possiamo chiedere ai DJ di Uru, che loro erano loro la fonte di questo di questi aneddoti di Wanam, che andavano, quando erano giovani, andavano a suonare al campanello di Ginger Baker e salivano in casa a suonare tipo percussioni, jambè. Che personaggio meraviglioso che deve essere stato Ginger Baker. Cioè, anche questa parentesi di vita vissuta a Calenzano, io sarei stato curioso di sapere se in una qualche biografia di Ginger Baker ci fossero degli aneddoti di quel periodo, mi farebbero estremamente felici se conoscerli, ecco, sì, sì. Perché e i DJ di Uru si ricorda anche proprio il portone e il campanello anche di... Dopo si va a suonare, Dopo si va a suonare e andiamo a vedere chi ci sta adesso. Oh, ma lo sa che lei è nella casa di Ginger Baker. Tanto sicuramente saranno a vedere la finale di Sanremo. Probabile. Forse ci spareranno con un fucile a sale grosso. Lasciateci vedere. Che c'è, già c'è qui Troiaio stasera, cioè. Penso che l'ultima frase, sì, no, sto screcciando sul piatto del vinile, cioè, gesto riflesso, non ci fate caso, però appunto non parliamo, l'ultima volta penso che ho visto 3 minuti di Sanremo era quando c'era andato Elio e le Storie Tese a fare La Terra dei Cachi, poi... No, io mi ricordo solo Nilla Pizzi, no, poi il resto no. Ma oddio, forse lì eri proprio in fasce quando c'era Nilla Pazzi. La Gigliola Cinquetti te la ricordi? Certo. Anche se ho sempre avuto un debole per i ricchi e poveri. Vabbè, lì che ci vuole. Che, ci vuol... che poi, cioè, noi qui stiamo ridendo. Qui stiamo ridendo e scherzando, ma. Aprendo una parentesi sui ricchi e poveri, e visto mi sto prendendo questo assist di Frog 166, questo assist a porta vuota. Non era 164, scusa. No, era anche 357 magnum. Ah, vabbè, a seconda dei colpi, in canna, vai. Una delle caratteristiche appunto di Frog era, essendo ai tempi in coppia con Prog One, era cambiare il numero di Frog a seconda dello sbalzo dell'umidità, quindi nel frattempo è cambiata tantissimo e sei già diventato Frog 166 in questo momento. Numeri progressivi, non sempre. Non sempre. Io ho visto un altanelarsi abbastanza importante stasera. Sì, infatti, poi dipende dal momento, però rientra, cioè, come la pazza la palla strumpallazza, te la ricordi? Cioè, certo, ci giocavamo che era la variante della palla avvelenata. No, la palla strumpallazza, io l'ho vinta con la pulce, si immagina, ricordi storici. È una palla che quando la buttai per terra rimbalzando volea. Ah, e non solo dopo chiappala. Ma non solo dopo aver assunto ogni No, ero piccino a quei tempi. Ma chi lo sa, sai, gli effluvi di quei tempi. Ci può stare, no, ma davvero una rincorre, un ceraverso, pigliato. Ma. Però io stavo facendo un discorso serissimo sui ricchi e poveri, perché mi avete interrotto mentre stavo appunto esaltando questo grande gruppo del pop italiano, che forse non tutti sanno che con poi a cavallo della caduta del muro di Berlino loro sono diventati degli eroi dell'Europa dell'Est. Per baffi? Non per i baffi, ma proprio per la musica, perché era uno dei... dei primi gruppi occidentali che valicava la cortina di ferro. Orale. E c'è un... questa cosa l'ho saputa solo grazie, devo dire, a Max Collini degli Offlaga Disco Pax, che appunto in un suo pezzo che si chiama Tatranchi, che era un wafer tipico della Repubblica Ceca del blocco sovietico, raccontava appunto di questa storia della Repubblica Ceca nei primissimi anni 90, quindi subito post caduta del muro di Berlino, che in una discoteca di Praga, quando il DJ ha messo un pezzo che ora non mi ricordo quale, dei Ricchi e Poveri, però probabilmente uno dei loro grandi classici, cioè tutti cantavano tipo karaoke in italiano. In Repubblica Ceca all'inizio degli anni 90 una canzone dei Ricchi e Poveri, perché era uno dei primi, uno dei gruppi più conosciuti occidentali dell'inizio, subito dopo la caduta del muro, quando per ascoltarsi un disco di musica occidentale non dovevano più inciderlo sopra le radiografie. Perché la musica, non so se lo sapete, ma nei paesi del blocco socialista era assolutamente vietato ascoltare e introdurre musica occidentale, e per ascoltarsi i Beatles e i Rolling Stones, per farli arrivare di sottobanco, anche perché se ti beccavano con uno di quelle registrazioni ti facevano il famoso culo come un cestello, venivano stampate sulle radiografie. Venivano stampati queste tracce, questi solchi sulle radiografie, per potersi ascoltare con la qualità che vi lascio immaginare le canzoni della musica occidentale. E ovviamente dei solchi incisi su una radiografia, forse alla quinta volta che li ascoltavi, probabilmente sapevi se ti eri lussato una costola invece di sentire la musica. Ci voleva piatti quadrati, ci voleva. Esatto. E quindi questo era un piccolo inciso su i Ricchi e Poveri, che non c'entravano un cazzo. Infatti, la cosa bella è che mi capirebbe capire come sei arrivata a collegare ora me ora i Ricchi e Poveri, però va bene. Ma forse è colpa mia, ora non mi ricordo. Bene, sì, no, era... Ma per Sanremo, forse, perché sì. È stato Frog 666 che mi ha fatto questa assist in area di rigore a porta vuota, faccio una butto dentro, Lì fai finta di non guardare e la butti dentro di Rabona, no? Colpa di Nilla Pizzi. Da grande Nilla Pazzi. Nilla Pazzi. Nilla Pazzi, tra l'altro, era emiliano. Sì, era... Non era... Non voglio dire stronzate. Lasciamo perdere e facciamo partire... I Ricchi e Poveri. Magari sarebbe... Portatemelo un bel vinile dei Ricchi e Poveri. Attento, io ce l'ho, eh. E come, ancora non me l'ha portato? Attento. Con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto insieme. Ce l'hanno i miei vecchi, però ce l'ho. Wendy, se ce l'hai... No, non ce l'ho. I miei genitori non ascoltavano Ricchi e Poveri. Son veramente bistrattati questi poveri Ricchi e Poveri. Più poveri che ricchi, no, anzi più ricchi che poveri probabilmente. E al di là delle bagioanate, qui ho sotto mano un altro dei dischi di comporto che mi ha portato qua il buon Prog 999, e questa è un'altra raccolta di un altro grande gruppo di quell'inizio del rock, di quella grande esplosione del rock che sono state appunto la fine degli anni 60. Qui erano ancora nella versione, erano delle piccole facce ancora in questo periodo, e poi diventeranno proprio delle facce quando subentrerà Rod Stewart alla voce. qui invece erano ancora sì. Gli Small Faces. Gli Small Faces, penso, formatesi nel 1965, 64-65. Io quindi, mi fido, eh. Sì, una buona annata. Vado un pochino così al ricordo, però diciamo uno delle, dei gruppi mods inglesi, no, non i primissimi, perché comunque sappiamo c'erano stati tanti altri. Però come diceva il nostro Penapò, il nostro Antonello, Antonello, detto anche Antonello, Antonello! Dal disfacimento di questo gruppo nel 68, credo, sono nati i Faces con Rod Stewart e il bassista degli Small Faces, che hanno, insomma, hanno avuto un discreto successo, sì, assolutamente. E poi più hanno lanciato la carriera solista anche di Rod Stewart. Rod Stewart, che poi quando ha visto come stava andando il suo successo, ha detto: sai che mi cambio il taglio di capelli e poi da un'altra parte è preso e lanciato ormai dai Faces, iniziò la sua lunga carriera solista che tutti immagino conosciamo, improntata molto poi molto più sul pop. E va bene, però anche se qualche perla ogni tanto ce l'ha regalata, soprattutto all'inizio. All'inizio assolutamente degno di nota, poi vabbè, si sa, quando cominci a fare successo lo vuoi replicare, quindi inevitabilmente deve andare incontro ai gusti del pubblico. E viva le perle ai ai maiali, sì, ai fix. E allora sentiamoci quest'altro brano, un altro grande successo appunto degli Small Faces, questa dal lato B del vinile portato stasera appunto dal buon Prog 999, e questa è René degli Small Faces qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Thank you. ci stavamo distraendo con questo pezzo degli Small Faces. Questa era appunto René, scritta da Marriott e da Lane. Però appunto andiamo avanti, come direbbero quelli. E io ho già piazzato un altro vinile qua sull'altro giradischi, perché come si dice a Firenze in vernacolo, sono voluto cascare dal ritto, ovvero sono voluto andare sul sicuro per in un toscani. Infatti qui qua sotto gli occhi ho un meraviglioso disco, sempre dalla collezione appunto di Radio Geronimo, ed è lo stupendo e meraviglioso secondo album dei Gang of Four, che neanche a dirlo, nel caso vi interessasse... No, dici, perché guarda, su questo siamo impreparati. L'ha fatto Ricchi e Poveri? No, ma nel caso vi dovessero particolarmente interessare e piacere i Gang of Four, io vi rimanderei alla puntata di Tonight Alive sui Gang of Four, che spero e credo di aver sviscerato a sufficienza. E questo è il secondo album della band post-punk appunto dei Gang of Four, grandissimi compagni. Infatti, cioè, i Gang of Four erano la banda, cioè, mi riconnetto un attimo così, erano la banda dei quattro, ovvero i quattro che fecero cadere definitivamente la rivoluzione culturale maoista in Cina e segnarono definitivamente la fine della dottrina puramente maoista cinese e aprirono una nuova stagione politica in Cina. Ricordo che tra questa banda dei quattro c'era anche la seconda moglie di Mao Zedong, che era una delle cospiratrici. Vi potete immaginare che fine fecero la vera banda dei quattro. E questa band super politica inglese degli anni Ottanta ripresero appunto il nome dalla banda dei quattro, non a caso. Infatti anche loro erano estremamente politicizzati. E da questo meraviglioso secondo album io metterei addirittura due brani, e partirei appunto con la prima del lato B, ovvero Cheeseburger, e poi farei un salto sempre in questo lato B, e poi, visto che il periodo è perfetto e ci sta proprio a fagiolo questa canzone, come seconda metterei A Hole in the Wallet, ovvero il buco nel portafoglio. E questi chiaramente sono i Gang of Four, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? I need a cheeseburger to go! Give me a jack and a half cheeseburger in the house. The last thing is having that in this. Come promesso, passiamo sempre da questo lato del disco dei Solid Gold dei Gang of Four. Andiamoci a sentire l'ultimo pezzo del lato B, che è perfetto per questo particolare periodo storico. A Hole in the Wallet, Gang of Four, dal loro secondo album Solid Gold. Sempre qui, Basement Records, Radio Wombat. not born that way. Guns take up all his time. When the job leave me in a mess. Questo era, è partita ovviamente, a questo punto diciamo che parte l'errata coverage, perché come sempre se siete ascoltatori abituali di Basement è successa la basementata, ovvero volevo mettere A Hole in the Wallet ma ho messo He'd Send in the Army. Però che era l'ultimo pezzo appunto del lato B, invece quella che volevo mettere A Hole in the Wallet, che spero vi andrete a recuperare per conto vostro perché ne vale assolutamente la pena, era la penultima, però ormai la basementata era partita. Però io direi che c'è stato due basementate in questi c'è momenti. C'è stato due basementate, infatti questa era la parte dell'errata courage o errata courage, non so come pronunciarlo, insomma degli errori, infatti stavamo parlando in fuori onda di quello che avevamo detto prima della Repubblica Ceca, che vi avevo raccontato quel famoso aneddoto, e quelli divenuti famosi, famosissimi in Repubblica Ceca e appunto in diversi paesi socialisti non erano i ricchi e i poveri, non me ne abbiano a male, ma bensì addirittura Albano e Romina, infatti era Felicità, la famosa canzone che cantavano in karaoke nella discoteca di Praga, e qui faccio ammenda del mio errore. Però visto i personaggi che ho il piacere e l'onore di ospitare con me questa sera nella puntata di Basement, non mi posso esimere da un argomento praticamente mai toccato qui nelle frequenze di Radio Wombat, e visto che siamo tre appassionati di questa per due tragedia, i primi e gli ultimi praticamente, come i primi e gli ultimi. E parliamo, facciamo un piccolo excursus di calcio, io lo voglio sempre introdurre a Radio Wombat, invece mi infamano tutti, e quindi voglio da voi un commento su questo campionato. Prima di partire con le lamentele, facciamo parlare il capolista qua, che è prog Lukaku, e ci faccia un commento sulla sua squadra a strisce, per favore. Il colore avete indovinato, no? Allora sì, fortunatamente almeno per qua a Firenze una delle righe delle strisce non è bianca ma è azzurra, quindi via, diamogli un po' di spazio, giusto solo perché siamo a Radio Wombat e vogliamo bene a tutti, A quasi tutti. Sì, via. Non lo so, questo stai rischiando grosso. Questa sto rischiando cosa. Grossissimo, cioè, già ho diversi fogli di via qui da Radio Wombat, guardiamo se ne collezioniamo un altro stasera. No, io ecco, come grande esperto di calcio vi posso dire solo che, facendo un parallelo con gli anni di Nilla Pizzi, mi sono fermato a Rummenigge. E quindi Karl-Heinz Rummenigge. Dopo di lì non vado, mi dispiace. Qui si sta nascondendo dietro un dito. Poi c'è odore. Caro Frog 888. C'è odore di censura, quindi non mi voglio. No, ma non ci permetteremo mai. Come le viene in mente anche solo una cosa del genere, solo perché abbiamo delle spranghe nelle mani, cioè, ma si figuri, cioè, ormai il fenomeno ultras purtroppo è andato a sparire, e dobbiamo dare voce a tutti, anche perché se no si parlasse solo del nostro colore, cioè, già siamo in un periodo di tragedia, almeno facciamo parlare qualcuno che ha un minimo di cui essere lieto, diciamo. No, ma rimaniamo a tema, parliamo di tragedie, dai. Parliamo di tragedie. Ma ecco, io essendo molto amico e rispettoso di iProg 1583, io anche Frog 1359 potrebbe diventare da adesso. Comunque, anche se voglio bene, però io non va bene. Non si può dire che va bene loro perché sì, non va ci bene. Vorrebbe una squadra con alle strisce, quello siamo d'accordo, però non si può avere tutto e più che altro, cioè, pensiamo al nostro dramma. Il nostro dramma è abbastanza importante calcisticamente parlando, cioè, volevamo fare questa parentesi. Io purtroppo devo ammettere che sono un tifoso sfegatato, soffro molto, ok, e assai non mi convince tanto, però continuiamo a dire ok assai e Gotine ti convince? Gotine chi l'è? Aspetta un attimo. Il DS. Gotine, no, ma anche lui, poverino, io non so. Per lui, no, ora stiamo parlando in gergo, parlando della Fiorentina. Io ce lo vedevo bene, lo sai dove ce lo vedevo bene a Sanremo, guarda, oggi, Gotine. Io lo vedevo bene a Case Passerini, poi, sì, no. Cioè, però va bene. Diciamo che chiudiamo qui. Meno male ci si ripiglia con l'allenatore. Mi fermo, se no l'ho per tutti, io l'ho per no, tutti. Guarda, tu sai che su questo piano c'hai una spalla che si potrebbe partire e fare una trasmissione di 5 ore di infamate, anche solo parlando e lamentandosi di questa cosa, però visto che i problemi sono ben altri in questo momento, chiudiamo qui questa parentesi. Questa parentesi di dramma sportivo, per carità, vabbè, lasciamo perdere a questo punto rinnoverei gli appuntamenti qui. Io intanto vi mando un salutone grande. Che fai? Te ne vai così in questo modo brusco, via, aspetta due minuti, aspettiamo 2 minuti e giusto per ricordare appunto il palinsesto di Radio Wombat, che proseguirà domani domenica con la sua consueta programmazione, quindi l'arte del vizio, la replica di Wookwops, la replica di Uru, il consueto appuntamento mattiniero con Container, ovvero con tutti gli interventi che non sono riusciti a trovare spazio all'interno delle trasmissioni della radio, l'ormai classico appuntamento a pranzo del notiziario anticlericale e poi il grande ritorno del pomeriggio di musica classica, il ripiglino domenicale di Radio Wombat con La fuga del gatto, con Bloody Mary e la Virgi che ci allieteranno nel recupero domenicale con la loro selezione di musica classica. E appunto per completare la puntata di stasera di Basement Records con tutti gli errori e le facezie di stasera, chiuderei con il botto. Volevo dargli magari più spazio altre volte, perché questo disco di Radio Geronimo è veramente un capolavoro degli anni 80, e quindi ve lo riprofinerò in altre puntate sicuramente. Stiamo parlando di quel capolavoro che è stato la collaborazione di Brian Eno insieme a David Byrne, ovvero quell'album capolavoro che si intitola My Life in the Bush of Ghost. Essendo in chiusura, non vorrei tediarvi con due ore di descrizione solo di quest'album, che se non conoscete spero vivamente che andrete a recuperare. Però per chiusura di puntata di questa sera metterò uno dei miei pezzi preferiti da quest'album, ovvero The Jezebel Spirit, da questo My Life in the Bush of Ghost, partorito da quelle due menti geniali di Brian Eno e David Byrne. E quindi a questo punto non posso che rinnovarvi l'appuntamento qui sulle frequenze di Radio Wombat con la programmazione di domani mattina, e con noi ci rivedremo sempre qui su queste frequenze e sul solito sito con Basement Records o Tonight Alive, dipende sempre come mi gira, e a sabato prossimo. Un caro, caloroso abbraccio virtuale e un grandissimo ringraziamento ai due ospiti di stasera che mi hanno tenuto compagnia in questo sabato sera. Vi ringrazio vivamente. Grazie a te. Grazie a voi, ero stato pretoloso andare via, ma sa quando si parla di Fiorentina in questi momenti. Sì, no, era proprio la misura di... No. ma l'ultima traccia non è Felicità? Potrei metterlo in post-produzione, guarda, perché vinilicamente parlando ancora non mi è pervenuto questo gioiello, ma nel caso in cui mai mi pervenisse nelle mani, potrebbe addirittura diventare la nuova sigla di Basement Records. Sarebbe bellissimo. Sarebbe una meraviglia, senza niente togliere a Build Me Up Buttercup dei Foundation. Però vabbè, aspettiamo Felicità. E intanto vi lascio con questa Jezebel Spirit. Grazie a tutti. Buona serata. Saluto, se ci rinviterà presto, ci saremo presto. No, qui vi metto la tenda direttamente, non avete capito voi due. Non fate tanto gli ignorri. Ci prepareremo meglio per la prossima. Non fate tanto gli ignorri. Un saluto a tutti, buon sabato sera, buon weekend. Chi ha vinto? Stendiamo un velo pietoso. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore.